Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Completiamo con oggi, prima di iniziare il percorso all'interno dell'Avvento insieme alla Caritas Diocesana, il nostro percorso di condivisione delle esperienze relative ai profughi, migranti e richiedenti asilo. Nelle scorse settimane vi abbiamo già proposto diverse esperienze e riflessioni. Quella che vi facciamo sentire, condividiamo con voi oggi, è l'esperienza di Suor Giovanna Botti, delle Francescane Missionarie di Gesù Bambino. Anche loro si sono messi a disposizione per una microaccoglienza in città di Padova. Quando ci si apre, la prima cosa, mi vengono un po' degli esempi così, no? Apri una porta, entra il sole, apri una finestra, entra l'aria fresca, coltivi la terra, nascono i germogli, accogli insieme, no? Così. E quindi questo è stato molto bello, perché il primo frutto l'abbiamo poi ricevuto noi, suore, appunto. E l'esperienza di come nella nostra spiritualità, nel nostro proprio carisma, siamo francescane missionarie di Gesù Bambino, di farsi grotta, no? Colui che è stato accolto da una grotta e non nelle case. E questo è stato il primo frutto. Poi diciamo che sì, proprio esattamente un anno fa io sono arrivata a Padova il 14 ottobre e la casa era chiusa, parte della casa era chiusa da 4 anni. Avevamo prima una scuola materna da 50 anni che operava nel territorio, nella parrocchia, e per tante cause è stata chiusa, però poi tutte le varie iniziative che si sono tentate non sono andate in porto. E quando io sono arrivata, conoscendo già Don Luca, la Caritas dove avevo lavorato in passato, un po' il sociale dove ho sempre lavorato a Padova, così la prima cosa è, ovviamente, sono venuta da Don Luca, ho detto: ma qual è l'urgenza? L'urgenza era questo, come si fa? Ci sono le cooperative. Quindi, cioè, non è che c'è stato chissà che ricerca, chissà, ecco, la disponibilità a dire ok, vediamo. Quindi ci ha suggerito una cooperativa con la quale ci troviamo non bene ma benissimo. Sono persone prima di tutto umane, poi professionalmente preparate, e che desiderano non solo, ecco, dare tetto e piatto, ma di più. E quindi hanno promosso anche tante altre professionalità che girano dentro a questa struttura, a favore sia degli operatori, come una supervisione per esempio, e a favore soprattutto delle ragazze. Ecco, varie iniziative che sono nate anche all'interno di questa accoglienza. Noi parlo dell'esperienza non mia ma della fraternità, no? Siamo passate da un momento di no di illusione, però ecco, di quel desiderio forte di accogliere, no? Eravamo piene di entusiasmo, no? A un momento di disincanto, diciamo, perché di fronte a un'accoglienza di, ci sono 10 nigeriane e provenivano, questo parlo noi, l'accoglienza abbiamo iniziato il 25 febbraio, ce n'erano 10 nigeriane che provenivano dalla Frandina. Quindi avevano costituito un gruppo molto coeso fra di loro, e questo era sia bene, però era anche un male, perché ecco, erano molto solidali fra di loro nel bene e nel male. Più c'è, subito dopo, una settimana, è arrivata una donna del Mali con una storia anche lei molto particolare, sofferta, e con una bimba di 15 mesi allora aveva. Ecco, anche questa integrazione fra di loro è stata interessante, è stata forte, no? Ma soprattutto è stato forte perché, dicevo, questo disincanto, perché ci siamo trovate, ecco, magari gli operatori erano già preparati a questo, no? Anche se abbiamo fatto anche lunghi dialoghi con gli operatori e soprattutto col presidente della cooperativa, così ci siamo trovate di fronte all'impatto di culture diverse, la nostra e la loro, quello che necessariamente avviene quando si mettono in conto delle culture. E questo io lo sento, proprio queste difficoltà che abbiamo incontrato in questo anno, in questi mesi, perché sono 7 mesi, 8, cioè è proprio l'essere stimolati, no? Tutti noi, prima di tutto, a metterci a confronto e quindi a crescere, a superare degli atteggiamenti che noi, secondo noi, ecco, sono quelli giusti, perché non c'è un modo esclusivo per cuocere il riso, no? Per scendere nei particolari, che è quello del risotto alla milanese. Ecco, si può fare anche in altri modi, per dire la cosa semplice, per dire che tante cose nella mentalità bisognerebbe, ecco, cambiarle. E il volontariato all'inizio è venuto quasi esclusivamente dalla parrocchia, e quindi anche le varie esigenze, o venivano per conoscere, così, gruppi dei catechesi, cioè c'è stato, ecco, un interessamento generale, no? Diciamo, io vado avanti un po' sempre per immagini, è come se la comunità parrocchiale all'inizio avesse fatto l'esperienza di una doccia gelata, no? Anche perché la maggioranza della gente va avanti con i propri giudizi, che spesso sono pregiudizi perché non conosci, ecco. Quindi mi sembrava che la cosa bella era poter conoscere le situazioni, e quindi siamo anche noi passati, ecco, in questa fase di disincanto, e attualmente viviamo nella terza fase, secondo me, che è quella della consapevolezza, no? Della consapevolezza che non riceviamo ovviamente applauso generale, no? Dalla gente, così, questo va benissimo, non è importante, e però della consapevolezza profonda che avessimo aiutato soltanto una persona a prendere coscienza che questa è un'opportunità per loro, forse abbiamo raggiunto lo scopo. Personalmente io dico che anche, come diceva Don Luca, è un'opportunità grande per noi, e l'ho detto prima, ma anche per la comunità che accoglie, perché ti mette in moto, ti mette anche in riflessione, no? Delle tue idee, e magari capisci, perché questo è successo, che una persona in particolare che all'inizio era schierata chiaramente contro, poi è venuta a chiedere scusa e ha fatto lui stesso, ecco, questo cammino bello, no? Prima di tutto umano, prima che cristiano. Era la voce di Suor Giovanna Botti delle Francescane Missionarie di Gesù Bambino a Padova, la loro esperienza tra ricchezza e qualche difficoltà, appunto, di accoglienza dei profughi. Le esperienze che abbiamo condiviso con voi queste settimane erano appunto quelle proposte dalla diocesi di Padova, dalla Caritas in particolare, che ha detto bisogna fare di più e meglio, ma bisogna farlo insieme a tutte le realtà che si occupano di questa situazione, che certamente sarà con noi nelle nostre città, nella nostra Europa, per molti e molti anni. Ne parleremo ancora in altre occasioni, dalla prossima settimana, esperienze più legate invece all'avvento che sta per iniziare. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.